eppur mi son scordato di te. Come ho fatto, non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella, però un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Volevo vedere questa zagara che gli hanno piazzato sul mento, anche perché così potremo fare causa finalmente a Capri e alla regione campana, perché io ne ho le scatole piene di non avere dei presidi medici di livello. Ma come? Un attore o un calciatore o una persona qualunque, qualunque incidente gli capiti, in queste situazioni va in un ospedale e non gli sanno mettere nemmeno dei punti. Io quando ho visto la fotografia ho detto subito ai miei avvocati: chiediamo 100 milioni di danni a tutte le istituzioni, perché poi li verseremo in così in li devolveremo a chi ha bisogno. Ma devono, i politici devono avere una lezione. Il sindaco di Capri, ma che ci sta a fare a Capri? Il presidente della regione, ma che ci sta a fare alla regione campana se poi non riesce a coltivare quelle perle che abbiamo? Ma Capri è Capri. A Capri può arrivare una barca con sopra un carico da bilioni di dollari e succede qualcosa del genere. Ma che figura facciamo? Nemmeno in Africa. A parte gli strali degli africani che già stanno arrivando, 800 24 00 24, questo è il numero verde per voi ascoltatori tutti convocati, ma anche per le istituzioni della regione Campania, il sindaco di Capri se vorrà, Ciro Lembo, perché secondo me ha ragione De Laurentiis, non sia mai che io dia torto al presidentissimo. Non dimenticatevi che, cioè, lo dice uno che, come ho dichiarato ieri, prende 2 milioni di euro netti, il sottoscritto, per parlare bene di Balotelli. Devo ridiscutere il contratto, però, dopo che Pogba ne vale 200. Questo lasciamo stare, ne parliamo dopo. Allora, non dimenticatevi che non solo i piedi, ma anche la faccia di Higuaín sono di De Laurentiis. Leggi i diritti d'immagine che a Napoli sono sacri. E allora, come può il Pipita girare il cinepanettone in questi giorni a Castel Volturno con quella faccia lì? Ma io prendo 2 milioni di, milioni di euro netti per parlare bene di Balotelli e 3 milioni di euro netti per parlare bene di Mourinho, ricordatevelo. Ma mi sembra una richiesta onestissima quella di De Laurentiis, 100 milioni, poi il sindaco di Capri dice io ne voglio 50 perché mi ha rovinato lo scoglio, si può transare su, appunto, sulla metà, su una cinquantina. 800 24 00 24, Luca Calamai, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Tu quanti soldi prendi per parlare bene degli AIC? Ma dai, lasciamo perdere. Cioè, è chiaro che ora io non conosco la situazione, se non esiste un presidio medico importante, questo è un problema, ma prescinde ovviamente dal giocatore. Va messo, ma va messo come in tutte le realtà di questo paese. Insomma, mi sembra una provocazione un po' fine a se stessa, ma non, poiché non conosco bene i dettagli me ne astengo, anche perché sì, sennò poi chiede danni a tutti. Ma certo, anche a te richiede. Ma quando c'è un nido di vespe lui sa benissimo dove mettere i piedi, il presidentissimo, che a me fa impazzire. Cioè io, fuori dallo scherzo, sono un suo ammiratore. No, ma comunque sfegatante. Grande, ora escludiamo questa cosa, che questo non c'entra proprio niente. È un uomo che nel calcio ha portato idee, coraggio, a volte anche delle provocazioni che però hanno scosso l'ambiente, e poi insomma alla fine ha venduto un giocatore che lui aveva preso per poche lire, l'ha venduta, ha rifatto la squadra, e quindi chapeau. Sì, chapeau a lui, ma anche ai Della Valle, che si sono comportati alla De Laurentiis quest'estate, ma hanno fatto benissimo secondo te, secondo me. Tu oggi lo scrivi sull'affare gli AIC. La Juventus vuole Jovetic, chiama il procuratore di Jovetic, si mette d'accordo con Jovetic, e io Della Valle che faccio? Col cavolo che te lo do a te Juventus, lo vendo al Manchester City, a Jovetic piaccia oppure no? Uguale con gli AIC, si mette d'accordo con il Milan, firma il preaccordo con il Milan, perché anche questo non è un segreto, Marameo lo vendo alla Roma e prendo i soldi che hanno preso i Della Valle e che il Milan non era disposto a scucire. I procuratori sono avvertiti, caro Luca Calamai, e Galliani ha un bel dire oggi, mi sono perso l'agenzia, ma il senso è non voglio commentare questa vicenda, i Della Valle hanno fatto la loro scelta, non voglio fare polemiche, penso a stasera. No, io faccio un discorso, se ti ricordi la famosa frase ricchi scemi dell'ex presidente del CONI, no? Come no? Allora, io credo che in questi anni si sia consegnato per certi versi a terze figure, procuratori, maneggioni, intermediari, gente misteriosa, pittori, di tutto un po', ottenendo un unico risultato, quello di perdere sempre, perché poi a turno perdono tutti e vincono tutti gli altri con i soldi dei presidenti. Allora io credo che il messaggio che arriva oggi dalla famiglia Della Valle è un messaggio intelligente, niente di geniale, ma sai, questo è un calcio che, che anche le cose normali sono geniali, però è un calcio che dice: invece di far guadagnare gli altri, tanto a turno siamo sempre in difficoltà, vediamo se ci aiutiamo a vicenda tra di noi e i soldi restano in casa nostra. Ecco, l'operazione di Aic, l'accordo con la Roma, porta a questa riflessione che io trovo estremamente saggia. E poi ci sarà sempre qualche il furbetto del quartiere, però se il furbetto poi dopo finisce lui sotto scacco e gli altri poi si mettono d'accordo, magari potrebbe pensare che è più intelligente, intelligente cercare di evitare questi giochetti, che poi, ti dico la verità, non, alla fine non qualifica nessuno. No, certo, però Luca, quello che ti voglio dire è che i Della Valle possono permettersi di fare questo tipo di discorso e De Laurentiis pure, perché dicono gli Aic, io posso permettermi anche di non convocarlo e lasciare la sua seggiolina nello spogliatoio tristemente vuota. De Laurentiis eventualmente può permettersi di dire: uno vuole Cavani, la clausola rescissoria è 64, non una lira in meno. È un discorso che fa anche Pozzo molto spesso con l'Udinese, presidenti che agiscono in questo modo, che sono ossi duri e lo sanno tutti, ma che possono permetterselo. Sì, però bisogna da qualcosa bisogna partire, no? Cioè bisogna partire. Queste sono due realtà che hanno iniziato. Dico che la Roma ci sta provando e questo è un altro segnale importante. Fra un po' ci sarà una nuova Inter. Ma alla fine, lo ripeto, poiché i contratti scadono un po' per tutti, le scommesse di calcio falliscono, vive la legge del calcio che è bravo chi sbaglia meno. Allora alla fine, io credo che se passa un principio in cui le società si accordano sul fatto di non farsi, di non appoggiarsi a terze figure per fare la trombetta di giornata, tanto poi alla fine i soldi ritornano pari, io credo che ne esce meglio il calcio. Ma questo è, forse sono molto Alice nel Paese delle Meraviglie, perché poi alla fine ci sarà sempre qualcuno che cercherà di essere più furbo degli altri. Ma questo è un messaggio che io trovo anche giusto, trovo normale, trovo un vedrai, te lo anticipo oggi, certi segnali poi li ritroverai nelle battaglie di Lega. Ma non perché ho dubbio. Sta nascendo un altro partito politico, no? del calcio. E non ti sorprendere se tra Fiorentina e Roma può essere una motrice alla quale, che poi si trascina dietro anche Juventus, Inter, cioè tutte quelle grandi squadre che sono rimaste tagliate fuori dal governo della Lega dal Milan, che come al solito sono più vispi e quindi arrivano prima degli altri. La vispa Teresa è Galliani? Esatto, no, ma perché è un grande manager, cioè, non ti dimenticare che si va a un passaggio basilare, cioè la distribuzione dei diritti televisivi, che sembra lontanissimo, ma è domattina, e quindi è chiaro che oggi stare al comando della Lega ti dà un vantaggio non di guadagno, di gestione, che è un vantaggio importantissimo, ma ripeto, ma vuoi insegnare a Galliani? Galliani è il numero uno in assoluto. Sì, è il numero uno e io, come è stata fatta una provocazione qualche tempo fa da Alberto Costa, qualche mese fa, Mino Raiola presidente di Lega, io ce lo vedrei benissimo comunque, anche se so benissimo, inviso a tutti quanti, a te compreso, però su Pogba, Mino Raiola ieri ha detto questa cosa: Pogba in scadenza di contratto, non domani ma nel 2014 se non ricordo male, ovviamente guadagna in questo momento 4 soldi, perché preso 4 soldi relativi ovviamente rapportati al mondo del calcio, però preso come giovane di belle speranze, adesso se questo esplode in mano alla Juventus, cosa che tutti gli juventini si augurano, si porrà il problema di reinchiostrare il contratto di Pogba, e allora bisognerà passare attraverso il signor Raiola. Sì, Bale vale 100 milioni, Pogba e Balotelli, ma minimo il doppio. Dunque, Balotelli era la Gioconda, adesso Pogba diventa Dalì, e il forziere del Louvre, le chiavi del forziere del Louvre le ha Raiola. Ma lui è bravissimo. Tra l'altro, guarda, te dicevi, facevi riferimento prima a Galliani Raiola, ma Galliani ha utilizzato anche Bronzetti quando gli serviva il mercato spagnolo. Mm-hmm. Cioè lui utilizza, cioè poi lo fa tuttora, lo fa tuttora, ecco, no? Cioè lui non è che si consegna, lui utilizza. Quanto a Raiola, ma questa è la logica dei grandi procuratori. Loro hanno nella testa un grande colpo l'anno. I procuratori importanti non vogliono tre colpi, mm-hmm, perché poi anche loro pagano le tasse. Mm-hmm. Il grande segreto è muovere un grande giocatore l'anno. Allora, ora Balotelli si deve placare, per cui Balotelli secondo me per 1 o 2 anni comunque deve restare al Milan, anche perché deve finire un percorso. Ibrahimovic è a fine corsa. Allora io fossi la Juve non starei per niente serena, perché in realtà il procuratore guadagna molto dalla cessione, non dall'allungamento del contratto. L'allungamento, sì, certo, del contratto sono briciole. Certo. E quindi io se sono la Juve dormo sonni non sereni, e credimi, Pogba è un fenomeno. Anche secondo me Pogba è un fenomeno assoluto. Spaventoso. Poi, poi c'è qualcuno che lo discute, come è giusto che sia, perché il calcio è una cosa bizzarra. Ecco, ma però prendi nomi e cognomi, poi ci si risente fra qualche anno. Ci si risente fra qualche anno, deve imparare ancora tanto, però è un ragazzino che non sembra neanche uno stupidotto, per dirla alla Allegri, e quindi Pogba è veramente la prossima grande cosa del calcio mondiale. Senti, un'ultima cosa, Milan, tu hai citato diverse volte Galliani, allora... per dirle invece alla Lotito, vedere soldi dare cammello, stasera o si vedono i soldi o c'è crisi di governo non ad Arcore ma a Milanello, che poi forse no, è la stessa cosa. Cioè oggi è inimmaginabile, cioè pensare se quante ne abbiamo viste inimmaginabili. No, ma cosa succede se il Milan va fuori? È una cosa inimmaginabile. E allora, insomma, fammi fare l'italiano per una volta. Cioè già siamo fuori dalla possibilità di recuperare 4 squadre in Champions. Se continuiamo così rischiamo di andare con 2. Allora oggi bisognerebbe spogliarsi, e io mi spoglio, di qualsiasi tipo di bandiera e pensare che abbiamo bisogno del Milan in Champions, perché abbiamo bisogno di un calcio italiano che tiene un certo valore. E lo stesso discorso varrà domani per la Fiorentina, visto che abbiamo sostanzialmente, temo, già perso l'Udinese. Quindi facciamo tutte le guerre sportive che vogliamo in campionato, ma quando andiamo fuori ragioniamo come azienda. È una certo, brutta parola, ma insomma funziona. Poi tu sai benissimo, Luca, che ci sono quelli che giustamente, anche perché il calcio è così, se ne impippano del ranking UEFA e dicono: se il Milan va fuori io stasera godo. Io ma credo al di là dei fiorentini, molti fiorentini stasera ti faranno per il PSV. Che, non solo fiorentini, ognuno farà quello che vuole, però se perdiamo ulteriore valore veramente qui non guadagna niente più nessuno. Sì, però resta il discorso, facciamo ovviamente io, te e tutti quelli che ne hanno voglia il tifo per il Milan, però se il Milan non dovesse passare resta il tema crisi di governo. No, salta tutto, perché non, insomma, quando l'estate, la primavera scorsa si diceva il Milan non può andare in Champions se no è la fine, e l'abbiamo capito in questo mercato. Cioè è 3 mesi che trattano per 1,5 milioni per onda, nemmeno se avessimo parlato della somma di Maradona. Ma certo, poi mi dicono ma perché il Milan non ha alzato di quei 2 milioni, 3 milioni l'offerta per gli Aici, a parte che Della Valle voleva darlo alla Roma perché al Milan non gli garbava, per usare il tuo vernacolo. Però il Milan fa i conti, in questo momento fa i conti con le monetine che ha nel salvadanaio, che esatto, sono pochissime. E poi se alla fine compro un difensore, secondo me non sbaglio. Ma figurati. Perché ormai è entrata questa logica che bisogna comprare solo attaccanti nel calcio italiano. Allora, fino a che Milan, Inter, Fiorentina, Roma, Napoli non entreranno nell'ordine di idee che la grande differenza tra la Juve e tutti gli altri, che la Juve c'ha Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, ha preso Gbona, c'ha una difesa che sta a paletti 10 volte superiore a tutti, ecco, fino a che non si riequilibra quell'area lì del campo, se può comprare tutti gli attaccanti del mondo, ma lo scudetto vince sempre la Juve. Lo so, però per decreto presidenziale si comprano gli attaccanti solo prossimo attaccanti. Vabbè, certo. Che dobbiamo fare? Grazie Luca. Ragione. Ciao. Ciao Luca Calamai della Gazzetta dello Sport, 800 24 00 24. Insomma, dopo il traffico voglio parlare con voi, poi vorrò parlare di mercato, poi vorrò farvi sentire un sacco di voci, di nuovo Raiola, poi Materazzi e poi Allegri sul preliminare e poi molte altre cose, poi di nuovo De Laurentiis perché mi fa impazzire. Traffico. Io quando ho visto la fotografia ho detto subito ai miei avvocati: chiediamo 100 milioni di danni a tutte le istituzioni. Tutti convocati. Chiaro. Garcia, aspetta un attimo, ho da fare adesso, ti chiamo dopo. Ti chiamo dopo, Luis. Scusatemi, è vero, il contratto, ho sbagliato anno, ho sbagliato i tempi, non mi ricordavo nemmeno qual era l'anno di percorrenza. Il contratto di Pogba scade nel 2016, non nel 2014, che è l'anno prossimo, naturalmente. Scade tra un bel po' di tempo, ma Raiola è già lì con la penna in mano, penna d'oro naturalmente. 800 24 00 24. Luigi Cosenza, Raffaello, Verona, Stefano, provincia di Modena, Angelo, provincia di Bergamo. Fammi risentire il telefono, dai Luigi. Salve Carlo, senta, allora io sono tifosissimo del Milan, stasera ti farò Milan a prescindere, ma la mia domanda era rivolto soprattutto al calciomercato della squadra, perché ho sentito il signor Calamai giustamente esaltava le doti di Galliani, per carità, nessun tifoso rossonero penso le possa mettere in dubbio, però nel momento in cui ci sono delle statistiche che ti dicono che da quando è andato via Thiago Silva il Milan prende il 50% in più dei gol di testa, non ne prendi una che saranno 2-3 anni, che a centrocampo non corri da ormai anni, sì, non capisco perché si vada a prendere un fortissimo difensore, o perlomeno questa è l'idea, come Alessandro Matri, perché Alessandro Matri penso lo metteremo poi centrale al fianco di Mexes a questo punto. Sottolineando che non so rispondere, ma perché sono d'accordo. Allora, a parte il fatto che il Milan ha questo problema, ne abbiamo discusso ieri di questa cosa. Sì, siamo d'accordo. Il Milan questi problemi sui calci piazzati li aveva anche con Nesta, Thiago Silva, con Carlo Ancelotti. No, non lo so se sia qualcosa di endemico, se sia qualcosa che mangia una Milanella, non lo so. Andiamo a contare i gol che prendeva però il Milan di Carlo Ancelotti. Sì, certo, ma non c'è dubbio, ne prendeva di meno. Ancelotti aveva anche altro materiale a disposizione che Allegri non ha, e non è colpa sua. Detto questo, si parla tanto della difesa della Juve, ne parlava anche prima giustamente Luca Calamai. Difesa della Juve ha dei paletti, di lì non si passa e non si scappa, però al di là di Chiellini, sul cui valore assoluto possiamo anche discutere, non dimentichiamoci che Bonucci 2 anni fa non lo voleva nessuno, 3 anni fa non lo voleva nessuno, che dopo l'ultimo campionato pre-Conte nessuno voleva Bonucci in Italia, figuriamoci in nazionale. Barzagli, ragazzi, Barzagli ha fatto campione del mondo, quel che volete, nel 2006, ha fatto il suo giro, Germania, Palermo, eccetera, eccetera, però non era esattamente Beckenbauer. La verità è che la Juventus intera, la fase difensiva intera della Juventus funziona come un orologio. Lasciamo stare Buffon, che insomma a fasi alterne è il miglior portiere del mondo, questo è quasi un assioma, un luogo comune anche quando non è vero, però insomma la verità è che la Juventus riesce, così come il Milan che era grande, a proteggere con l'intero suo gioco la difesa, prende pochi gol, eccetera eccetera. Detto questo, è evidente che il Milan avrebbe bisogno di un difensore centrale. La verità è che però non c'è in giro un difensore centrale della stirpe dei Nesta, dei Thiago Silva, dei Samuel e di questi che da soli sono in grado di migliorare il rendimento dei compagni. Quindi il Milan magari farebbe bene a riportarsi a casa Astori, che era suo, che ha venduto secondo la moda tipicamente italiana, o il giovane che non mi convince lo cedo in comproprietà, poi lo vendo e poi lo ricompro per un sacco di soldi, perché così funziona. È indubbio che il Milan avrebbe bisogno di qualcosa dietro, ma avrebbe bisogno anche di qualcosa a centrocampo, più che di un nuovo attaccante, perché anche questo si diceva l'altro giorno, con gli attaccanti che ha, carta di identità alla mano, il Milan può campare per 5-6 anni, Petagna compreso, perché se ci si crede in Petagna facciamolo giocare. Raffaello, Verona, buongiorno. Pronto, buongiorno. Telefonavo io per la multa fittata ieri a Verona dopo la partita col Milan. Noi a Verona, dopo 11 anni di sofferenza, abbiamo come vissuto in una bolla di sapone domenica a vedere i commenti della stampa, tutti gli usinghieri, persino nei confronti di Mandolini, eccetera. Ci sembrava che l'atteggiamento dei tifosi fosse stato quello giusto, eccetera, era riconosciuto da tutti. Ieri 40.000 euro di multa. Adesso non sto, mi pare che ci sia una sproporzione, soprattutto con l'atteggiamento tenuto verso le altre società. Sì, e noi spesso veniamo accusati di passare sempre per vittime, eccetera. Io sono un tifoso pacifico e credo di rappresentare anche la maggioranza dei tifosi veronesi che hanno usato un atteggiamento questa volta correttissimo, sì, e sì, si vedono puniti in maniera per me esagerata. Sono d'accordo, Raffaello, sono d'accordo. Sono d'accordo perché anche di questo si parlava con Pierluigi Pardo appunto ieri. Insomma, il calcio non è lo stadio, non è un santuario, non è una chiesa, quindi non facciamo i pervenisti lì a fare il tifo solo per i propri colori, non vedremo mai nessuno. Il pubblico di Verona ha usato un atteggiamento estremamente ironico e non vedo perché punibile. Confermo. Stefano, provincia di Modena. Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io vorrei commentare le parole di De Laurentiis. Io sono un tifoso napoletano, sono nato a Napoli, però per lavoro vivo in provincia di Modena. Sì. Io do pieno appoggio a De Laurentiis, ma non perché sono un tifoso del Napoli, perché le sue parole sono ironiche, perché lui è un uomo di spettacolo, è abituato no, a provocare le persone. Però quelle parole lì dovrebbero far riflettere noi italiani, no? Noi tifosi, perché lui ha detto una cosa sacrosanta, ha detto il presidente della regione, il sindaco, che ci sono a fare, ci devono far riflettere, perché noi italiani, se qualcuno di noi è mai andato all'estero, ci rendiamo conto che noi viviamo nel paese più bello del mondo, ma non lo dico da italiano, lo dico da persona obiettiva, credo che lei non mi dà torto, perché... Se noi andiamo all'estero, andiamo a vedere grattacieli, andiamo a vedere cose che non hanno valore rispetto alle nostre città, alle nostre cose. Quando ci sentiamo dire che vediamo le nostre cose tenute male mentre gli altri le valorizzano, allora De Laurentiis ha ragione a dire: voglio fare causa alla regione Campania, così magari la prossima volta imparano. Perché anzi, lo dovremmo fare tutti noi ogni volta che paghiamo un servizio che poi non ci viene dato niente. Quindi sì, credo che le sue parole vanno proprio. È un segnale forte, noi italiani dovremmo prendere, secondo me, esempio al di là dei colori della nostra squadra, che crede? Ma io quando ho visto la fotografia ho detto subito ai miei avvocati: chiediamo 100 milioni di danni a tutte le istituzioni, perché poi li verseremo li devolveremo a chi ha bisogno, ma i politici devono avere una lezione. Il sindaco di Capri, ma che ci sta a fare a Capri? Il presidente della regione, ma che ci sta a fare alla regione campana se poi non riesce a coltivare? Poi non hanno neanche torto quelli che hanno risposto, ma ha detto queste cose dopo aver visto la fotografia, non ha neanche guardato in faccia al giocatore. Aspetta un attimo, vedi cosa è successo. Poi sono d'accordo che la faccia di Higuaín, l'immagine di Higuaín, se preferite, è di De Laurentiis, che ci deve fare il cinepanettone. Però quando ho visto la foto ho detto: avvocati, 100 milioni a Capri, gli chiediamo 100. Detto questo, io insomma non la penso in maniera molto diversa dal nostro ascoltatore, perché poi cominciano a dirci: allora abbiamo fatto il massimo con i mezzi che abbiamo. Abbiamo fatto il massimo con le poche risorse che abbiamo. Abbiamo fatto il massimo con i 4 soldi a disposizione e quanto ci resta nel portafoglio. Va bene, allora tutto sommato De Laurentiis nel suo atteggiamento provocatorio non ha pestato a casaccio questo nido di vespe. Cacci i sordi. Ma chi cacci i sordi? Angelo, buongiorno. Allora, io parlo. Pronto? Sì, ci sono, eccomi. No, perché sentivo un ritorno. No, io la sento, dica. Allora, parlo di Balotelli e di Seb Pogba, giocatore della Juventus, 19 anni, ha dimostrato di essere maturo come giocatore, è un grande giocatore a 19 anni. Un attimo, ma, vediamolo anche lui. Sì, ma però è intelligente, come un giocatore non va a provocare altri giocatori. Balotelli, che ha 23 anni, continua a dire che devono maturare. Qua delle mie parti dicono, quando uno è maturo cade dalla pianta. Ma dopo 23 anni deve maturare ancora quello lì? Allora, con tutti i soldi che sta buttando via. No, ma lasciamo stare i soldi che sta buttando via, che questi sono cavoli suoi. In Italia c'è questo atteggiamento, e lei lo sa benissimo, no? A 23 anni uno è ancora un giovane giocatore, no, a 23 anni uno è un giocatore, punto e basta. Detto questo, è difficile anche fare dei paralleli tra Pogba, che ha un certo tipo di atteggiamento, e Balotelli, che ne ha un altro. Detto questo, non sono neanche d'accordo con quelli che dicono Balotelli è un pistola e basta. No, è un grande giocatore che a 23 anni può ancora avere, così come ovviamente Pogba, perché nemmeno lui è perfetto dal punto di vista calcistico, dal punto di vista tattico, deve ancora imparare molte cose, deve ancora esplodere completamente, perché fino adesso abbiamo visto scintille di grandissimo talento, ma lo aspettiamo magari in questa stagione protagonista di un campionato intero da titolare. Ebbene, Balotelli in questa stagione ha la grande chance della sua carriera, cioè quello di essere il capo giocatore in un club importante come il Milan. È chiaro che non deve bruciarsi questa chance, questa possibilità. Non dimentichiamo neanche però che Balotelli qualcosina con la nazionale, ad esempio agli europei dell'anno scorso, l'ha già fatta. Qualcosina ha già fatto vedere, non è esattamente uno che ha fin qui completamente deluso. Qualcosina con il Milan nella prima mezza stagione che ha giocato, dopo che è arrivato dal City, classifica alla mano dei cannonieri, classifica alla mano del Milan dopo rendimento, dopo che è arrivato Balotelli. Beh, insomma, non possiamo dire che è soltanto uno che butta via i soldi, il tempo e le macchine e quant'altro. Mi sembra comunque un patrimonio del calcio italiano. Capito? Non la Gioconda, ma un patrimonio del calcio italiano, Balotelli. 800240024, subito dopo la borsa e una breve interruzione. Dunque, Cesare da Luca e Alessandro da Lucca, due toscani. Tutti convocati. Io penso che i sogni da presidente, come famiglia, li abbiamo realizzati tutti. È difficile anche poter eguagliarsi o superarsi, magari lui pensa anche questo, c'è solo il denaro nella vita. Cacci i soldi. Avete sentito Materazzi e poi ovviamente il famoso refrain di De Laurentiis, Materazzi a proposito di Moratti e della cessione dell'Inter. Tra un po' parliamo anche di Eto'o che parcheggia la bicicletta nerazzurra e chissà dove va, forse al Chelsea. Lo scopriremo. Allora, c'è chi scrive invece SMS 3492386666 a Ulisse. De Laurentiis interviene per nascondere la pirlaggine del giocatore che da bravo bambino non deve salire sugli scogli. No, Ulisse, non sono d'accordo. Io credo che i giocatori, salvo, non so, le corse in macchina o in moto o cose borderline, nel giorno di riposo possono anche andare a capre a farsi il bagno. Se poi uno scivola non dallo scoglio ma dalla scaletta dello yacht su cui stava, vabbè, sono cose che possono accadere, no? Non credo che i giocatori debbano stare in casa a fare l'uncinetto nel giorno di riposo. Cesare, Luca, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. In ossequio all'idea secondo cui fuori dal campo, io li valuto in campo, fuori dal campo mi interessa molto meno quello che fanno. Dica. Sì, io volevo fare intanto i complimenti ai Della Valle per come hanno gestito la questione Ljajić e Jovetic. Assolutamente sì, mi unisco. Soprattutto visto quello che era successo l'anno scorso con Montolivo. E io mi chiedo, ma questi casi di calciatori così che traccheggiano, rimandano, rinnovano il contratto, ecco, ma non è che potrebbe essere avviata un'indagine disciplinare? Perché si indaga spesso per questioni minori, di partite di fine anno, e qui che sono in ballo milioni e cose non vengono rispettate le regole, cioè da gennaio in poi trattano pure, ma ad agosto avere un anno prima che quasi si sa già dove vuole andare un calciatore un mezzo, non mi sembra proprio assolutamente, mi sembra una presa in giro verso i tifosi, verso tutto il mondo del calcio, e con delle conseguenze che secondo me andrebbero sanzionate. Sì, sappiamo che non è consentito nemmeno trattare, tantomeno firmare giocatori sotto contratto, però era una distorsione tipica dei tempi moderni, no? Sappiamo, questo non vale solo per la Fiorentina, per Montolivo, per Ljajic, per il Milan. Poi detto questo, i Della Valle nel caso di Ljajic hanno ottenuto esattamente quello che volevano. Io trovo sia una distorsione anche questa corsa alla firma per un giocatore che è ancora sotto contratto, però così vanno le regole, ed è per questo che dico e che insomma sposo la tesi di Luca Calamai: attenta Juventus, perché dopo che Raiola ha parlato in quel modo di Pogba, che ha scadenza, ricordiamo, 2016, siamo, se non ricordo male perché faccio confusione sugli anni, nel 2013, quindi mancano tre stagioni. Ebbene, la Juventus ha tempo, però non tantissimo, per trattare questo rinnovo che rischia di essere di enorme importanza. Alessandro, Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. La mia è una chiamata scaramantica, visto che ci siamo già sentiti l'ultima volta il 20 febbraio. Avevi chiesto l'apporto di tifosi milanisti per Milan-Barcellona, io chiamai molto tranquillo e fiducioso della vittoria, oggi un po' meno tranquillo. Della però... vittoria di chi? Del Milan o del Barcellona? Perché questo del non Milan, ricordo. Ah, Milan. Ok, va bene. Oggi un po' meno fiducioso, nonostante lo scoglio sembra più piccolo, però anche oggi sulla via dello stadio, così... vediamo un po' di vedere un'altra bella partita. Beh, però Alessandro, cioè, eri più fiducioso con il Barcellona che non con il piccolo PSV Eindhoven dei Boccia. Sarà perché ho già visto capire. Due partite, sarà perché ho già visto due partite del Milan già le ultime due settimane. Sì. E sinceramente, ad Eindhoven, dai, non era poi stata così orripilante la partita del Milan. A Verona non si è presentato, semplicemente non ha giocato. Io comunque stasera vado a vedere la mia cosa. Stasera andavo per vedere Balotelli, visto che l'altro anno, insomma, a febbraio non aveva possibilità di giocare. Spero perlomeno. Ma ti piace Balotelli o no? Sì, secondo me è un grande acquisto. Siamo rimasti in due o tre, riserva indiana. È un po' difficile la gestione del campo. Ma però, è difficile, per Balotelli è difficile la gestione di se stesso, la verità sì. È questa, che insomma, il vero grande limite, cioè io ti ripeto, a me di quello che i calciatori fanno fuori dal campo non importa nulla, ma sul campo sì, e sul campo Balotelli deve eliminare questo difetto, che non è cosa da poco. Con il Verona ogni volta che toccava il pallone gli arrivava. Ma guarda, se ogni volta, se Calva ogni volta che toccava la palla, ogni volta che toccava la palla prendeva un calcio. E ho capito, ma anche gli altri attaccanti, mica solo lui, abbi pazienza, però non solo lui, i grandi, perché Totti ne prende pochi, ne ha presi pochi in carriera Totti, Tevez, che per fare il riferimento. Forse Totti è uno di quelli che non è stato magari nella sua carriera sicura, però gente come Ronaldo gli ultimi anni veniva molto più salvaguardata dagli altri. Non mi sembra che sia Balotelli possa considerarsi una vittima del sistema arbitrale. Dico anche no, poi, no, non è una vittima, però salvaguardato, gli fischiano fallo, i falli che prende lui, calci da dietro, calcetti vigliacchi più o meno vistosi, più o meno evidenti. Tevez, per fare l'esempio cui ricorro più di frequente in questi giorni, perché adesso, attenti a quello che dico, dal punto di vista dell'atteggiamento in campo, oltre che della maglietta che indossava in nazionale, Carlos Tevez è quello che più da vicino mi ricorda Maradona. Lo stesso atteggiamento in campo nei confronti delle provocazioni degli avversari, era impossibile provocare Maradona in campo, è impossibile provocare Tevez, perché lui se ne sbatte, cioè lui prende il calcio, stringe la mano, va via, ed è una dimostrazione di forza, fammi quello che vuoi, io sono più forte di te, non mi fai paura. Balotelli ha l'atteggiamento contrario, che è un segno di debolezza, e gli avversari lo sanno perfettamente, ma sanno che toccare i nervi di Balotelli è estremamente semplice, lo provocano. Mi ricordo un labiale così colto di sfuggita dalle televisioni nella partita di Verona, e veniva provocato dal difensore veronese di turno, e lui guardando la palla, adesso la prossima azione te lo faccio vedere io, ma perché tutti lo sanno, che è troppo facile provocare Balotelli, e questo è un limite enorme. Allora mercato, mentre Berlusconi plana Milanello, scrivono le agenzie, e mi ricorda Giorgio Di Luca dalla redazione, Mercato, perché c'è Eto'o che parcheggia la bicicletta nerazzurra. Michele Criscitiello, speciale calcio mercato Sport Italia, ciao. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ciao. Allora, parte da Milano, è vero o no? Ha parcheggiato la bici. Ho capito, però bisogna trovare adesso il box per parcheggiare l'auto, perché è più ingombrante della bicicletta. In questo momento non c'è il box, almeno all'Inter. Ma perché serve? Serve per parcheggiare l'auto, perché altrimenti l'auto resta fuori e te la rubano, te la ciullano dopo tre secondi. Te la ciullano dopo tre secondi, ma a Eto'o serve il box a Milano o a Londra? Ma in questo momento servirebbe a Londra. Il problema principale è che è il box di riserva, perché stanno riservando un altro box a Londra. Almeno José Mourinho dice: sì, io punto su Samuel Eto'o, lo conosco all'Inter, è uno che si sacrifica, però Samuel Eto'o non è più quello del triplete, naturalmente, perché sono passati gli anni. Nel frattempo la priorità del Chelsea di José Mourinho è sempre Wayne Rooney. Nel frattempo l'Inter sogna un colpo, anche se proprio dobbiamo dirla tutta, almeno noi che ci occupiamo di calciomercato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, secondo me Mazzarri non vuole uno come Samuel Eto'o, cerca qualcos'altro, cercava Maurizio Isla dalla Juventus. Siamo praticamente alla fine del mercato, mancano pochi giorni e Isla all'Inter, una delle poche richieste di Mazzarri, ancora non è arrivato il cileno ed è ancora a Torino. Poi mi dicono: ma l'Inter insomma dovrebbe prendere un attaccante, all'Inter servono grandi giocatori. Mi sembra che Mazzarri l'abbia chiesto chiaramente un esterno, se poi non glielo prendono non è colpa di Mazzarri. Non solo ha chiesto l'esterno, ha fatto nome e cognome, Maurizio Isla, cileno ex Udinese della Juventus. Se non arriva è perché non mi sembra Maradona come richiesta. Mi sembra una richiesta esorbitante. Appunto, c'era dall'accordo anche sulla base di 8-9 milioni di euro per la metà del Castellino, e c'era stato anche l'incontro negli uffici di Gelfi tra Beppe Marotta, Gino Pozzo, perché ricordiamo di mezzo c'è ancora l'Udinese, e Marco Branca. L'accordo era stato raggiunto, poi è saltato anche per, tra virgolette, colpa dell'infortunio a Roma in occasione della Supercoppa Lazio-Juventus di Claudio Marchisio, che resterà fuori per altri 25-30 giorni. Senti, una tua valutazione personale sulla questione, sull'affare Ljajić, perché stiamo incensando Della Valle che ha fatto i suoi interessi, è un osso molto duro, ha detto: vabbè, tu firmi pre-contratto con il Milan e io ti do alla Roma, ti va bene così? Bene, non ti va bene così? Stai fuori dal campo, fuori dallo spogliatoio, in tribuna. Mio concetto è tutto personale: la Fiorentina ha vinto di nuovo sia nel mercato in entrata che nel mercato in uscita, perché vendere per 11 milioni di euro un calciatore in scadenza tra un anno, o meglio tra sei mesi, perché a gennaio avrebbe potuto firmare per qualsiasi società, è stata una vittoria della dirigenza. Ricordiamoci che i Della Valle erano rimasti scottati dall'operazione Montolivo, quando il direttore non era Prade ma era Pantaleo Corvino. Montolivo al Milan a zero, la stessa storia si stava ripetendo con Ljajić, se ne è accorto, non sono piaciuti i giochi, ricordandosi proprio di Montolivo, da parte del Milan. E cosa ha fatto la famiglia Della Valle? Ha trattato con la Roma, e la Roma, con una disponibilità economica importante per la cessione al Tottenham di Eric Lamela, ha messo sul piatto 11 milioni di euro. Ricordiamo, sono tanti, ma ricordiamo anche il caratterino di Ljajić. Ljajić è stato preso a schiaffi in panchina da Delio Rossi, far perdere la patente a Delio Rossi non ce ne vuole tanto, però comunque è un signore. La stessa cosa stava facendo con Montella, anche se non sono arrivati allo scontro fisico. Sì, allora, un signore che conosci molto bene. Non credo che il mercato del Milan passato da me, è stato un mercato molto calmo, non mi aspetto niente, ho sentito Adriano e vediamo, siamo vigilanti, se c'è qualcosa da fare lo faremo. Ho sentito Adriano Galliani, siamo vigilanti, dice il signor Raiola. Allora, il Milan deve innanzitutto intascare cosa ancora che deve ancora accadere, questi 30, e poi vediamo il mercato. Si continua a parlare di Matri. 30 non sono proprio 30, spieghiamola ai tuoi tanti ascoltatori, perché altrimenti si pensano che poi 30 vanno reinvestiti sul mercato. Saranno circa 22 i milioni di euro da poter investire, poi gli altri potrebbero arrivare ovviamente dai vari incassi della fase del girone. Sì, ma chi prende alla fine? Ti dico chi ha preso nel frattempo il Milan, perché è fissata per le ore 17 di oggi all'Hotel Hilton di Milano la firma del contratto come nuovo giocatore del Milan di Max Barisic, giovanissimo talento sloveno del Catania. Tu mi dici: che me ne frega, io però ti devo dare la notizia. Per il momento chi prende? Poi potrà sferrare un attacco al Cagliari per il difensore Astori. I rapporti tra Cellino e Galliani sono buoni, i rapporti tra Cellino e De Laurentiis sono pessimi. Quanto viene Astori? Com'è? Quanto viene a Story? È almeno 13-14, anche se comunque è la richiesta iniziale di 16 da parte del Cagliari e del direttore Nicola Salerno. Però 12-13 l'operazione si può chiudere, poi si prova a chiudere per altri 10, e arriviamo ai famosi 22 che ti dicevo prima, per Alessandro Matri, l'attaccante della Juventus, che comunque resta sul mercato. Attenzione poi allo Shakhtar Donetsk per Fabio Quagliarella, perché ieri Lucescu in un'intervista è stato abbastanza chiaro, ha detto: il calciatore lo seguiamo da tempo, però bisogna capire anche la disponibilità dello stesso attaccante napoletano. Grazie Michele, buon lavoro. A presto, ciao. Grazie Michele Criscitiello, ci fermiamo per le informazioni sulle strade, poi torniamo con altri ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Convocati. Calci sordi. Sbagliato a prescindere dalla fantozziana vicenda di Higuain, fare vita da atleta rientra tra i doveri, se non rendimento cala ci sono esempi a iosa. Sì, ho capito ascoltatore mio, ma fai il bravo, cioè cosa vuol dire fare vita da atleta, che uno non può andare a fare il bagno a Capri nel suo giorno di riposo? Ma cosa c'entra questo? Se poi un giocatore non fa vita da atleta, allora sarà a quel punto l'allenatore lì apposta, la società è lì apposta, non... Sta certo a noi valutare, almeno secondo me, per come la vedo io, valutare questi, quello che uno fa fuori dal campo nel suo tempo libero. A me non interessa se poi Wayne vuole andare a fare il bagno a Capri, qual è il problema? Picchia la faccia su uno scoglio, vabbè, ho capito. Allora che deve fare nel giorno di riposo? Stare a casa a guardare la televisione? Gianluca, provincia di Treviso, buongiorno. Cioè non è fare vita da atleta andare a fare il bagno a Capri, questo non mi torna. Dimmi. Ciao Gianluca. Grazie per la convocazione e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo farti una domanda, ne avete già parlato prima, però proprio non riesco a trovare il perché il geometro rosso-nero continua a cercare Honda e non sta in cerca, magari si fa suggerire da Raiola, un buon difensore, considerando che il Milan oggi ha una difesa... Questo è il tormentone, Gianluca. Questo è il tormentone, non lo so, probabilmente perché ha ricevuto mandato di prendere un attaccante. Poi... Sì, ma no, sicuramente non dal nostro presidente, che ha ben altro a cui pensare. Sì, ha ben altro a cui pensare, però alla fine l'ultima parola spetta a lui e Galliani lo sa meglio di tutti gli altri, no? Gli ha smontato diversi castelli mirabilmente costruiti, di carta, mirabilmente costruiti. Ricordo ad esempio quello di Tevez e quella telefonata, no. Guardi Galliani, Pato, Papero Genero, da qui non si muove, quindi Tevez non lo prendiamo. E Galliani tornò su tutte le furie da quel viaggio a Manchester, quindi non lo so, al Milan sicuramente e storicamente preferiscono spendere i soldi per prendere gli attaccanti. Poi è evidente che le urgenze sono altre, ma ne ha diverse di urgenze il Milan, perché guardate, non credo che con un grande difensore il Milan diventerebbe da corsa per alcunché, né per il campionato italiano né tantomeno per una Champions League ancora tutta da conquistare. A proposito, cosa ha detto ieri Allegri in questa vigilia? Ieri vi dicevo, c'era la conferenza stampa, mentre stavamo parlando non aveva esattamente la faccia delle migliori occasioni, raramente l'ho visto così tirato in volto in una vigilia. Atteggiamento, la squadra deve averlo sempre e comunque, un atteggiamento positivo, un atteggiamento, una squadra che vuole vincere, un atteggiamento non da presuntuosi, perché come dico sempre la presunzione è sinonimo di ignoranza e quindi bisogna avere un atteggiamento diverso, fa parte della crescita di alcuni ragazzi giovani, però questa crescita deve essere fatta, effettuata in modo molto veloce, perché altrimenti passano i giorni e da giovani si diventa vecchi e non abbiamo combinato niente. La storia del cane che si morde la coda. Milan ha problemi di crescita, però per crescere bisogna far passare il tempo, però il tempo potrebbe essere troppo e siamo sempre lì a girarci intorno. La verità è che il Milan è una squadra tremendamente incompleta rispetto a certi obiettivi, naturalmente. Messaggi 349-238-6666. C'è chi mi chiede un'opinione sulla Roma, c'è chi mi domanda la Roma ha chiuso oggi con gli acquisti. Allora, non ha chiuso oggi con gli acquisti perché si parla di altri giocatori, a cominciare da Sakho del Paris Saint Germain, che era stato accostato anche al Milan. Credo che qualcosa la Roma farà ancora con i soldi entrati dalla cessione ormai certa di Lamela. Mi sembra una squadra estremamente interessante così com'è e al netto di altre perdite. Mi sembra una squadra completa, piena di talento, superiore al Milan dal punto di vista dell'organico, questo è, mi sembra abbastanza certo. Che ne dite? 800 24 00 24, visto che si stava parlando di Milan, una squadra senz'altro più completa, più forte, con ruoli chiave meglio coperti, mettetela come volete, però se non parte più nessuno, se Pjanic esplode definitivamente, c'è qualche se e qualche ma, ad esempio Maicon, che giocatore è Maicon oggi? Quello che ricordavamo ormai molti anni fa, quello che abbiamo visto giocare in maniera strepitosa a Livorno nella prima di campionato, oppure è il Maicon un po' spompo e un po' bollito dell'ultima stagione dell'Inter? Anche questa è una è una domanda che ha diritto di cittadinanza, io credo. Non dimentichiamo anche che è l'anno dei mondiali e quindi i brasiliani giocheranno con il coltello tra i denti in questa stagione, almeno nel giro d'andata, perché poi attenzione, qualcuno comincerà a tirare indietro la gambetta. Denis, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno signor Genta, buongiorno. Senta, volevo trattare due argomenti distinti. Uno riguarda il reparto giovani dell'Inter, tipo Icardi e Belfodil, che sono stati presi, però poi si sono sempre a dire che sono sul mercato, e vorrei sapere con quale spirito giocano, poi con quale motivazione giocano. Sì. E l'altro riguarda un altro discorso, volevo citare un che non ha fatto, mi sembra, nessun notiziario, il settimo titolo che ha vinto Cairoli nel motocross, che è il terzo italiano che ha vinto più di tutti nella storia dello sport italiano. Ieri è stato il nostro ospite di apertura Cairoli, quindi non so più che dirlo lunedì e averlo come ospite il martedì, possiamo portarlo qua in braccio. Grandissimo risultato, possiamo solo ripetere i numeri, 7 titoli mondiali, eccetera eccetera eccetera. Mi sembra che quello che si doveva dire, comprese soprattutto le sue parole, sia già detto. Quanto all'Inter e a questi giocatori, ma è un fenomeno abbastanza curioso questo, che mi colpisce abbastanza di questo mercato, cioè il giocatore usa e getta, arriva, lo guardo, mi è successo anche con l'Axalt, no, all'Inter, che già era stato preso la scorsa stagione, è arrivato, gli è andato un'occhiata e ha detto no, tu adesso non vai bene. Adesso si dice di Icardi e Belfodil, boh, vediamoli, secondo me se li prendi almeno li valuti per una stagione intera. Dopo 3 mesi di allenamento difficile essersi fatti un'idea completa sul valore di questi giocatori, altrimenti perché prenderli? Si dice che la Juventus stia trattando la cessione di Llorente, poi è stato smentito tutto quanto, però anche questa è una voce che circola, boh. Non so cosa dire, si vede che è una nuova tendenza, bisogna chiedere a Mino Raiola, io non ho altre risposte da darvi. Allora, top player, altro termine strabusato, sentiamo ancora Grillo Parlante Materazzi? Loro sono definiti così come me, però loro giocano nel Milan e nella Juventus e sono dei top player. Io giocavo nell'Inter e sono una testa calda e rimarrò testa calda, però alla fine tutti questi che mi hai elencato forse hanno vinto meno di me, a parte Balotelli, ma ancora qualcosa devi vincere prima di arrivare al sottoscritto. Sì, ma Marco, non piangerti addosso, nessuno ha messo in dubbio le tue corone, che poi tu fossi testa calda, questo era discretamente vero, non mi sembra una notizia da prima pagina, poi insomma... Se non venivi considerato come giocatore, non vincevi un mondiale, non avresti avuto quei titoli, quindi piangersi addosso non è una buona idea. Andrea, Reggio Emilia, poi Franco da Roma e poi tutti a casa. Andrea, buongiorno. Buongiorno mister Carlo, grazie. Ciao. Per la convocazione. Grazie a te. Ascoltami, io volevo dire la mia su Balotelli. Allora, sì. Mario Balotelli secondo me è un giocatore fortissimo. Si possono anche perdonare certe reazioni come veniva fatto con Totti, ma gli manca una caratteristica per essere un grande campione. A me piace moltissimo tecnicamente perché è un bel giocatore, non è un leader, credo che non lo diventerà mai nel Milan. La leadership è qualcosa, è una qualità, non sono nemmeno io convinto che Balotelli abbia questa caratteristica. Non so se possa essere il leader del Milan, magari non il leader emotivo, il leader tecnico, io, che è una cosa diversa, io credo di sì. Ma poi mi fermo qui, perché sennò poi voi mi dite: ma tutti i giorni a parlare di Balotelli. Allora, ragazzi, se vengo interrogato io rispondo e poi non ve la pigliate con sottoscritto. Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo dire la mia su Higuain. Sì. Volevo dire, ma se De Laurenti si stava lì in ospedale per la ferita, volevo sapere, ma che dovevano usare? Un filo d'oro per caso? O dovevo far arrivare un ricamatore dall'Argentina o dalla Spagna? Ricamatore di tappeti persiani. Se vuol fare beneficenza, usasse i suoi veri, non quelli degli altri. Ecco, sì. Quello che volevo dire. Perché non mi sembra che De Laurentiis sia uno di manica larga, perché non ho mai sentito che De Laurentiis abbia fatto beneficenza. Ma per un tale scopo, ecco. Ma guardi, a parte il fatto che se uno fa beneficenza è giusto che siano affari suoi e molto privati, ma evidentemente era